momento abbiamo intanto una bella serata in compagnia dei nostri ospiti di questa sera. Siamo qui al Centro Trevi, che è una delle location scelte dalla biblioteca, e anzi ringraziamo l'Ufficio Cultura che la mette a disposizione, perché in questo periodo siamo in una fase migratoria dove ci spostiamo qui al Centro Trevi oppure al Cristallo. Eravamo un po' in agitazione in questo periodo. Ci fermeremo forse fra 3-4 anni, quando finalmente sarà concluso il progetto del polo bibliotecario. E allora intanto ci alleniamo a queste iniziative, perché poi nel polo ci sarà molto più spazio, ma soprattutto sarà anche più facile comunicarle e organizzarle in casa. Sì, ma diciamo che il polo è già concepito come una centrale di attività, quindi sarà anche più facile comunicare. Alle scuole ex Pascoli. Ecco, allora noi questa sera abbiamo pensato, visto che in primavera organizziamo sempre degli appuntamenti dedicati alla poesia. Tempo fa Elena Narro, che è qui con noi, è passata in biblioteca, ci ha portato alcune antologie che contengono le sue poesie, i suoi componimenti di pregevoli fatture, direi molto coinvolgenti e anche e soprattutto riconosciuti, perché ha ottenuto parecchi premi. Voglio ricordare il terzo premio, cioè la terza edizione vinta appunto col premio Ada Merini, e poi tante antologie dove compare. Abbiamo preparato una vetrina in fondo con alcuni libri al riguardo. Elena Nardo è un'insegnante di chitarra che si è diplomata al Conservatorio Montevideo di Bolzano con il maestro Zanetti, e devo leggerlo perché ha un curriculum molto interessante, molto lungo. È specializzata nel repertorio andaluso, però è anche una giornalista musicale, è molto attiva in tanti settori, tra cui appunto quello della poesia, che è forse la parte più intima che ci regala questa sera, accompagnata da Omar, ecco, Omar Careddu, che suonerà il violoncello. Omar è primo violoncello all'Orchestra Trentina, ma suona anche nell'Orchestra Bohème e ha un repertorio cameristico. Non suona solo il violoncello, ma anche il pianoforte, la chitarra, insomma. Oltre ad essere insegnante presso le scuole Archimede e le scuole Alfieri qui di Bolzano. Abbiamo anche con noi Carmen Esposito, l'abbiamo già conosciuta in altre occasioni, iniziative organizzate dalla Biblioteca Provinciale. Questa sera si presta appunto nella veste di attrice, che è la sua componente più importante, fondante. Si è infatti diplomata come attrice alla Scuola di Teatro di Bologna, è stata una delle prime performer in Italia nelle performance di video arte, e riconosciuti i suoi lavori sono anche inseriti in un circuito internazionale che vanno da Roma a Tokyo, a Barcellona, insomma. Prima abbiamo parlato un attimo, quindi era interessante anche mettere insieme queste persone, queste eccellenze della nostra città, che si occupano di cose molto particolari, molto difficili, no? E quindi anche sono delle occasioni particolari per noi come biblioteca riuscire a proporle ad un pubblico selezionato come questa sera, e soprattutto molto molto attento e curioso. Io vi ringrazio, vi invito anche a tornare a visitare la biblioteca, che al momento resiste in via Vendola 5 con grande fiducia, però prima o poi si sposterà. Grazie a voi, grazie della vostra disponibilità, e soprattutto una buona serata a voi tutti. Grazie. Nardo. Rinasce la primavera. E un fiore di nardo, nella cui essenza scorge la parola ardo. Ardere solo per quello che vale. Non lesinare nel cospargere al Signore i piedi col nardo. Il limite. Hai posto un limite sul mio cammino per ricondurmi a te vicino. Hai messo un angelo sul mio selciato a dissuadermi da ogni peccato. pezzi e in catene. Quella bellezza che fu cibo, ma pare andato come grazia nel volto di un angelo che spezzava le catene e lasciando volare verso il mio destino. Thank you. selezionare anche una poesia di Alla Merini, intitolata Per Giovanni Falcone. La mafia sbanda, la mafia scolora, la mafia scommette, la mafia giura che l'esistenza non esiste, che la cultura non c'è, che l'uomo non è amico dell'uomo. La mafia è il cavallo nero dell'Apocalisse che porta in sella un rito mortale. La mafia accusa i suoi morti. La mafia li commemora con ciclopici funerali. Così è stato per te, Giovanni, trasportato a braccia da quelli che ti avevano ucciso. Ricordiamo che appunto le poesie sono anche contenute in alcune antologie e possono essere